La signora W. 7 agosto. Adesso viene moltissimo, una povera figura singhiozzante da cui gli stessi movimenti esprimono un dolore straziante. 11 agosto. Da un paio di giorni essa diventa sempre più tremendamente agitata. È una donna. Sono molto riconoscente di non dover più scrivere niente d'ei altro. 15 agosto. La povera signora è così angosciata e la signora di W. È esattamente come era da viva, solo che è inconsolabile. Nota. Suo marito era apparso già prima. 18 agosto. È sempre uguale, essa non riesce a parlare. Si gettò sul mio letto e incominciò a piangere spaventosamente. 20 agosto. Essa venne da me 7 volte. Non c'è niente da temere da lei, solo che essa mi rende molto triste. Nota. Anche ai santi è capitato di aver paura di essere magari vittime di inganni del demonio. Un sacerdote insistette nel consigliarla a sospendere le annotazioni del diario. In seguito a questo essa fu presa da scrupoli. Questa è la ragione per cui dopo questa data del 20 agosto c'è una lunga pausa. 25 febbraio 1927. E così riprendo a scrivere di nuovo, tutti gli stupidi scrupoli se ne sono andati. La signora W venne in tutto questo tempo complessivamente 37 volte, non fece mai paura, solo immensamente triste sempre. Essa ha parlato molto poco. Io? Perché devi soffrire così tanto? Sei pur stata molto buona. Io? Dio giudica diversamente dagli uomini, era tutto solo esteriorità. Io? Ma tu hai avuto tante tribolazioni e preoccupazioni che ti hanno fatto tanto soffrire, no? Lei? Non le ho sopportate con spirito di sacrificio. In seguito non la feci più parlare. Improvvisamente non venne più. Nota. La signora W fu conosciuta molto bene sia dalla principessa che dal parroco Wieser.